ad alta voce. Monica De Muro legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. Mentre il conte, con la destra mano, nella sala pioveva a torrenti, si udiva tuonare, teneva alto intorno al viso il bavero della giacca, la scena di poc'anzi ricominciò. Come vi fosse stato in essa qualcosa di sbagliato, l'autore segreto delle passioni che governano o distruggono il mondo l'aveva disfatta, eliminandone tutti quegli elementi e titubanze che impediscono all'uomo di vedere chiaro e alla giustizia di farsi avanti. Si rivide ilario, vestito come quando era venuto allo sbarco, ma tutto nuovo, curato, profumato, scendere dall'alto della scala che porta in biblioteca, e un limpido raggio di sole scivolando per lui solo dalla vetrata gli formava intorno alla testa una benigna aureola. In mano reggeva un rotolo di carte appena copiate, strette da un nastro giallo, e dietro di lui, preciso come nella scena precedente, veniva il nero Don Fidenzio, ridendo e sussurrando qualcosa di estremamente piacevole all'orecchio del letterato. Ma girando appena il capo, in quel bellissimo sole, al conte che se ne andava sotto l'acqua, nella tempesta, e adesso si era, un po' per ripararsi, un po' perché era stanco, addossato a un muro, fecero un viso che esprimeva senza cerimonie i loro sentimenti, i quali erano di fastidio e aperta contrarietà, ignorando del tutto quanto il conte fosse mutato. «Ma conte mio, siete impazzito?» gridò pressappoco con la voce del vento il giovane. «Entrarmi in casa con tutto questo fango! Come siete passato?» «La casa del Segovia, che tu hai visto, lettore, nelle tristi condizioni da noi descritte, era infatti profondamente mutata. Lucida, splendida, la stessa casa patrizia degli Hopkins, perché ormai il tempo era passato e i Hopkins avevano un titolo laggiù in America. Erano grandi patrizi». Con un filo di voce e insieme un asciutto grido che non usciva e nel quale mai avresti riconosciuto il gaio accento, la serenità, la freddezza, l'impossibilità di mutamento per cui andava noto il lombardo, questi rispose: «Si tratta di giustizia, perciò scusami». «Vengo subito», questo rispose ammansito il patrizio. E consegnate al prelato le sue carte, che un po' le osservò, scese agilmente la scala che sembrava d'oro e sulla quale brillava un rosso tappeto fino al corridoio dove il conte lo aspettava. Qui giunto, gli prese le mani e disse con un accento di sincera preoccupazione: «Ma tu stai male, tremi. Che è accaduto, Daddo?» E poi, subito dopo, con una pena che fece male al conte: «Ma tu sei armato?» Il conte abbozzò un sorriso livido e ripose l'arma automaticamente nella fondina. «No, non di questo devi temere», proseguì aggrottando la fronte per il lieve sforzo che ogni tanto gli veniva dal ricordare, come dal prendere atto di questi mutamenti e distinguere fra queste continue sovrapposizioni di reale e irreale. «Non di questo, Ilario, ma del tuo stesso animo, come io del mio. Vi è qualcosa che ignoriamo, che non vogliamo sapere, vi è qualcuno nascosto che ci impedisce di guardare. Vi è un inganno a danno di persone deboli, vi è nella nostra educazione qualche errore di base che costa strazio a molti, e ciò io intendo colpire». Si sedé su una panca che era apparsa e il marchese gli porse un bicchiere d'acqua. Lo guardava con infinita pietà. «Capire? In base a che cosa, Dato? Lascia che le costellazioni trascinino il corpo santo. Dio è morto, è morto, è morto!» Queste parole seguite da uno scoppio improvviso di pianto e quindi da un selvaggio suonare di campane, non sapevi se a Osanna o a Morto lasciarono indifferente il conte. Egli era mutato, in quanto sentiva che nella vita il lato terribile era proprio la compassione, in quanto così il male velava i suoi crimini, il bene lasciava luogo a profonda debolezza. Egli non aveva più altro scopo nella nube che era stata la sua vita, se non il risorgimento di Dio, la sua liberazione dal sepolcro e la restaurazione del diritto. A Liguana, come ad altri fatti della vita, non pensava più. Sempre per un bisogno d'aria che da qualche tempo lo tormentava, si affacciò alla finestra e vide passare un gruppo di persone dirette verso il lato sinistro della casa, che conduce al sentiero del pozzo. Davanti camminava Ilario, piangendo, e subito dietro di lui una ragazzetta che mai aveva veduto, grigia e scalza, trascinando un grande secchio. C'erano anche i Hopkins, marito e moglie, con un'aria preoccupata. Prima l'hanno ucciso, con la loro arroganza e la loro smania di potere, e ora intendono recuperarne la salma, come se a qualcosa servisse. Si disse il conte con un sarcasmo che non gli era abituale. Non gli era abituale neppure il viso che vedeva nel vetro della finestra. Vi era un immenso deserto in questi occhi e sulla fronte un che di accigliato e fantastico, estraneo alla mite fisionomia del conte, e le sue labbra si muovevano in modo impercettibile, febbrile, senza che ne uscisse una parola. Egli non amava la vista di quell'uomo e perciò uscì dalla stanza. Del resto l'udienza cominciava tra poco e vi sarebbe stato da divertirsi. I Hopkins avrebbero portato in sala il corpo di Dio dicendo che era morto. Bisognava rassegnarsi e cominciava ora un'altra vita. Ma egli avrebbe fatto capire che non era così. Si era aperto un sentiero nel muro e qui, dove il temporale era passato, pioveva ora dolcemente, dolcemente, come se piangesse. Il mondo era verde, benché fosse novembre, e nulla recava traccia del recente tumulto. Egli avrebbe voluto andare al pozzo, che, ne era sicuro, era a due passi da lì. Invece andò giù, scese lentamente. Giù era l'udienza. Si respirava male. Dove fosse realmente il conte in questo frattempo, se al pozzo a guardare con gli altri se vi era traccia del corpo di Dio o in giro per l'isola con la pistola nella povera mano sulle orme dei colpevoli, se in fondo al pozzo o in quel freddo e allucinato tribunale, noi, lettore, seppure ciò ti parrà strano, non possiamo dirti. Ma tu, se di questi continui passaggi da un luogo all'altro e mutamenti di scena e spezzati dialoghi e rapido inserirsi di un luogo in un altro, se di questi intarsi di casa, di vento, di pozzo, di sentieri frementi e muti interni, di vive foglie e di morti muri, di raggi di sole e raggi di lampada, di cammino e di stasi, di immobilità e movimento e soprattutto di un crescente dolore, di una tristezza senza requie, di una rabbia indicibile, mista a parole usuali e anche della scomparsa della nostra iguana, come di quei prodigi e quelle risa che hanno caratterizzato finora la nostra storia, sarai portato a chiedere spiegazione. Rifletti, in attesa che possiamo dartene una, ammesso che vi sia una spiegazione a questo mondo di imperscrutabili fenomeni, dove tu anche vivi, rifletti, pensieroso lettore, alla particolare ristrettezza mentale del giovane architetto, dove però s'annida una generosità di cui egli non era, prima di sbarcare in questa dolorosa isola, al corrente. Volgi poi la ragione tranquilla, tu che sei salvo, alla tremenda verità dell'anima, che è qui, ovunque e in nessun luogo, e ciò mentre un giovane corpo cammina, è avviato in una certa direzione, in un'altra, dove lo portano le nuove domande dell'animo suo. Ma che cos'è un corpo di fronte a ciò che lo conduce? E che quel corpo, quelle mani, quegli occhi hanno il semplice dovere di esprimere? E che cos'è il tempo in cui tali atti e pensieri si dipanano? Cos'è lo spazio se non una ingenua convenzione? È un'isola, una città, il mondo stesso con le sue tumultuose capitali, che altro sono se non il teatro dove il cuore, colpito dai rimorsi, pone i suoi ardenti interrogativi? Così non meravigliarti, lettore, se la malattia, così possiamo chiamare il pensiero, che da tempo minacciava il nostro conte, morto vivente nella sua classe, è esplosa nei modi tremendi che vedi, rivelando la sotterranea malinconia, la straziata esigenza del reale. Perciò, del prato e il bosco, la sala e il pozzo, la tempesta e il sereno, le rapide nuvole d'aprile e la chiusura di novembre, che così si confondono alla fine della nostra storia, non indagare la causa, riconoscendo in essi piuttosto il risoluto cammino e il solo vero dell'anima tra le cose che hanno finto fin qua di essere lei e con turbamento grande e paura la imitano. Inizia il processo. L'udienza. Ancora al pozzo. Quasi novembre. Prima di inoltrarci col giovane gentiluomo nella sala dell'udienza, situata in qualche parte dell'isola non visibile, probabilmente tra le radici di un ulivo o una quercia, siamo tenuti a testimoniare di alcune deboli grida che si udirono lassù, segno che il viaggiatore era in qualche giù. Certi «Daddo! Daddo! O signor Conte!» che andavano e venivano nell'alto e poi si spensero, frutto certamente della troppo acuita sensibilità del nobile. Egli non stava bene, lo sapeva, o per meglio dire sentiva. Era in lui un'ebbrezza altissima, un'attenzione spasmodica a cose che non erano il suo fisico e perciò non vi badò. Egli stava col volto in fuori dal suo banco nell'aula e a quelle voci non poteva badare, sebbene solo a ciò che accadeva qui. Per prima cosa, entrando nella sala stretta e buia dove il conte era finito, il giudice ordinò che fosse fatta luce, più luce, una grande luce, e subito il povero lombardo vide il luogo dove si trovava. Sala piuttosto grande ma squallida, come tante, lettore, ne avrai vedute nelle illustrazioni riguardanti i famosi processi dell'Ottocento. La gente era vestita nel modo più dimesso e sciatto che si possa dare. Vi erano donne coi loro piccoli in braccio, lunghi uomini dall'aspetto tra disoccupati e ubriachi. Donne, uomini, infanti, erano tutti grigi, coi grandi occhi lacerati da raggi nevrotici, che sono propri dell'indigenza. Là in mezzo non facevano eccezione, tranne che per uno smorto silenzio, i miseri signori di Ocagna. Sul banco degli accusati era il conte e un ragazzo dal volto sensibile gli teneva la mano come a confortarlo. Scomparsa dalla persona del conte la negligente tenuta estiva con la quale aveva attraversato il mare Egli vestiva un abito completamente nero, da testimone di Dio. Questo era il nome, con una gran fascia d'argento. Di ciò egli si vergognava, e per questo, come per altri fatti, il suo corpo era scosso da un continuo tremito. «Faranno presto, sta calmo», trovò modo di mormorargli all'orecchio il buon ragazzo, che era proprio Ilario. «E per quest'abito mi vergogno», rispose il lombardo. Il processo non era chiaro, in quanto non si sapeva ancora il nome di colui che aveva ucciso Dio, e nemmeno se egli era veramente morto. E questo era il motivo, così può essere terribile la speranza, per cui il conte tremava. Comunque, i Hopkins erano da scartare. Un po' sembrava il giovane Segovia Mendes, un po' un tale di Milano, e da questo lato il conte era tranquillo, ben conoscendo la grande pietà della città cui doveva i natali. La pubblica accusa, un tipo assai simile al signor Cole, fece la storia di tutte le miserie e gli inseguimenti attraverso i quali era passato il creatore dei cieli prima di arrendersi. Disse dove aveva dormito i suoi sonni agitati, come l'aria gli mancava e il suo corpo andasse coprendosi di pustole. Enumerò le lettere o istanze che egli aveva indirizzato alle autorità e a molti nobili di Milano, senza che mai, tuttavia, si fosse tenuto di esse la benché minima considerazione. Immancabilmente tali lettere o istanze venivano dai segretari cestinate. «Dov'erano gli imputati?» chiese il giudice, rivelando così che si trattava di molti imputati, anche se uno solo era designato a rappresentarli. «Sui loro yacht, signore!» fece il Cole, asciugandosi gli occhi con un grande fazzoletto rosso, per cui il conte vide come in fondo era buono e, non reggendo alla pena, tornò a sedersi. Ora, il conte pensava che sarebbe stato chiamato lui a testimoniare sul delitto e alzò una mano tutta tremante, ma nessuno vi fece caso. Era in piedi e guardava intorno con gli occhi ardenti. «Si introduca la vittima», disse il giudice, e si alzò in piedi lui stesso, e tutta la sala si alzò piangendo e tremando. Entrarono due uomini spingendo un carrello bianco, e sul carrello era deposto l'Altissimo. Era, lettore, se mai sei stato desideroso di conoscere le vere sembianze di colui del quale favoleggiamo da secoli, senza mai essere certi di averlo ravvisato, era arrampicata e addormita su una foglia una semplice farfalla bianca. Ma quale grazia doveva aver avuto volando sui prati e i cespugli in fiore prima della tremenda sua morte? Era un bruco debole e semplice, ma con pure ali che ancora, forse al respiro della intera aula, tremavano in una parvenza di vita. Aveva antenne d'oro e occhietti assai buoni, assai puri e tristi. Pensando che in un così semplice essere e così debole e ormai cancellato dalla vita era il segreto, l'origine dello stesso immenso e allucinante universo, coi suoi splendori e suoi doni, con tutte le cose che lui e gli altri nobili avevano avuto e goduto, il conte sentì quanto la sua uccisione fosse imperdonabile e il lutto delle costellazioni infinito. Egli poi, lettore, essendo già da qualche ora il suo corpo molto indebolito e la sua indignazione sviata dall'ansia sempre più crescente del colpevole, non aveva più molte risorse e, dopo un po' che fissava in tale tranquilla estasi i resti dell'Altissimo, balbettò qualche cosa in cui non si distingueva che «Altro dunque era qui, inutile». Indi svenne. Mm. Mentre, per trovare un po' d'aria, andava verso il pozzo, si accorse di essere seguito. Erano armati di tutto punto i due Guzman. Vi era nell'animo del conte tanto dolore, una così strana e terribile ebbrezza, quasi egli stesse passeggiando da sempre in un luogo privo affatto di memoria, forse perché troppo ricco di memorie, come accade in certe quiete mattine velate, che non sai se incomincia l'aprile o non piuttosto il mese dei morti, che per la prima volta quei due ceffi non gli fecero alcuna impressione. Sentiva che lo pedinavano e con animo non quieto, ma ciò non aveva alcun interesse, in quanto gli pareva vederli dentro come fossero trasparenti e sentiva una tristezza, una immobilità, una mesta estasi quasi simile alla sua. Pareva non vi fosse più nulla nell'isola, né il tribunale, né la casa, reggia o carcere che fosse, né in fondo alla spiaggia, tra gli arbusti, le navi. Vi era solo il pozzo e vicino al pozzo una donnina che piangeva. Era assai piccola, assai buffa, assai povera, ma fosse stata anche l'assoluto contrario, il malato non l'avrebbe scorta. Il povero conte non le badò. Intanto i due Guzman si erano avvicinati. «Il loro caro fratello è partito, signori?» chiese nella sua nuova tranquillità con un debole sorriso il conte. «Sì», rispose Felipe abbassando il capo. «Anche un signor conte ci dimenticherà un giorno», fece Ippolito. Dunque lo amavano. Ma ciò nella triste anima del conte non aveva più risonanza. La donnina intanto ai piedi del pozzo faceva quasi lamentandosi e su lei volteggiavano, desiderando posarsi sui suoi stracci, tre farfalle bianche. La poveretta le allontanava. «Che ha questa povera anima, si può sapere?» si informò con benevolenza il malato. «Signore, le anime tremano per nulla, sono come le foglie degli alberi», rispose Ippolito. «Questo è vero. Qui una volta c'era una bella casa», osservò Felipe. «Il tempo e la disperazione non hanno lasciato più niente. Brutta cosa la disperazione, signore. E in fondo anche inutile, perché Dio non muore», rispose debolmente, guardandosi intorno il conte. «Egli si moltiplica incommensurabilmente», fece osservando le tre farfalle. «Egli è la sua cara grazia. Vedrai che un giorno risorgerà». «Sì, signore». Vi erano delle nuvolette bianche su in alto. L'uragano era finito. E dicevano così bene che l'uragano era passato e di nuovo bisognava avere calma e pietà. Si tolse di lì e, sempre seguito, però a rispettosa distanza, dai due Guzman, tornò in tribunale.